Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. C'è stato un periodo in cui a Roma un locale è diventato il centro del mondo per un'intera generazione. Stiamo parlando del mitico Piper. Lolite, musica, balli e tanti sogni, Roma, febbraio 1965, nasce il tempio della musica, della ribellione, della generazione Beat Shake, nasce il Piper Club. Fino al 1965, il Piper non era altro che un vecchio cinema abbandonato, triste, dimesso, con quell'aria decadente dal fascino romantico. La gente ci passava davanti e si ricordava con un po' di nostalgia di quando si andava a vedere i film, con l'odore di fumo, le poltroncine di velluto piene di buchi, il freddo gelido d'inverno. Poi è arrivato Vittorio Gassman, il grande attore, con tutta la credibilità per fare una proposta azzardata: trasformare il vecchio cinema in un teatro popolare italiano. Ma niente da fare, il destino del Piper è un altro. Grazie a una ristrutturazione all'avanguardia per l'epoca e alle idee visionarie di chi ha contribuito al suo successo, il Piper diventa il locale più eccentrico non solo di Roma, ma dell'Italia intera. Intorno al palco e alla pista, l'arredamento è raffinato e studiato nei minimi particolari. Dipinti di Andy Warhol, di Schifano, opere di Piero Manzoni. Nulla viene lasciato al caso. La sala è illuminata da 350 luci stroboscopiche multicolori, l'impianto sonoro dalla tecnologia sofisticata e sulla pista svettano cubi luminosi sui quali le ragazze più spigliate salgono per ballare. Giancarlo Bornigia, uno dei proprietari, è orgogliosissimo. Subito dopo l'apertura del Piper bastava dire al tassinaro portami al Piper, che ti portava al Piper, non c'era bisogno di dire portami via Tagliamento 9. Il manifesto per il lancio ha una grafica accattivante, pop, in piena linea con le tendenze della swing in London che arrivano direttamente da Carnaby Street. Finalmente anche a Roma un locale per i giovani, recita la locandina. E infatti in poco tempo tutti vogliono andare al Piper. I ragazzi aspettano il sabato sera per andare a sentire i nuovi gruppi emergenti. Le ragazze, mai state così libere ed emancipate, si infilano stivali e minigonne e si lasciano trasportare dalla musica, che già conoscono grazie alle radio private come Radio Caroline o Radio Luxembourg, che nascono proprio in quegli anni. Li chiamavano i piperini, ragazzi della Roma Bene, che danzavano con i loro ideali mentre le ragazze facevano scandalo con le minigonne di Mary Quant. Ma perché tu ti sei... Il Piper è l'icona di una generazione brillante, intraprendente, che vuole emanciparsi dallo stile dei genitori per crearsi un percorso tutto suo. Un percorso di libertà, leggerezza e rottura dalle convenzioni sociali. Cambia il modo di ballare, non più a coppie, non più il ballo della mattonella. Adesso si balla per sfogarsi, per lasciarsi andare. Alla serata inaugurale Bornigia chiama i due gruppi di riferimento, The Rockies e gli Equipe 84, che all'epoca sono sulla cresta dell'onda con ben 5-45 giri, tutti pubblicati nel 1965. C'era questa voglia di riuscire nella vita, e infatti quel gruppo che veniva tutti i giorni sono diventati quasi tutti famosi. Eh già, sono diventati tutti famosi i ragazzi del Piper. I grandi amici Renato Fiacchini, futuro Renato Zero, e Loredana Bertè, che vengono notati da un talent scout mentre sono in pista. Don Lurio e Rita Pavone, scatenatissimi. Caterina Caselli, giovanissima dall'anima beat. Ma la vera regina, che ancora oggi si fa chiamare volentieri la ragazza del Piper, è una e una soltanto. Nicoletta Strambelli, per tutti, Patti Pravo. Io sono Patti Pravo. Venezia, L'incanto sospeso sulla laguna, una città nella quale l'acqua scandisce i ritmi di vita e la quotidianità. Nicoletta Strambelli, futura Patti Pravo, nasce qui nel 1948, 3 anni dopo la fine della guerra, in un momento in cui l'Italia intera si prepara alla rinascita. Bellissima già da bambina, eccentrica e vagamente capricciosa, riceve in dono un grande talento, la voce, unita all'innata capacità di capire la musica. Quando ti danno un dono, lo devi rispettare e lo devi mantenere. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di averlo, però chiaramente ho un'etica per la quale io vado avanti. La sua non è una famiglia qualsiasi. Suo padre è proprietario di un'industria cantieristica, frequenta da sempre l'alta borghesia imprenditoriale veneziana e sua madre ama ricevere ospiti di altissimo livello. È con la nonna però che Nicoletta ha un rapporto davvero speciale, affinità caratteriale, diciamo. Ha contato di più mia nonna, forse. Perché mi ha capito e ha capito il frugoletto che allora ero bene, molto meglio di quanto non si potesse fare. E lei mi ha aiutato considerando già delle mie necessità. A casa della nonna passano le più grandi personalità del tempo. Artisti, scrittori, musicisti, letterati. Il poeta americano Ezra Pound, per esempio, profondamente innamorato dell'Italia. Ma anche un cardinale, Angelo Roncalli, destinato a diventare papa con il nome di Giovanni XXIII. Per lui Nicoletta da bambina si esibisce spesso, divertita, senza imbarazzi. Ma ogni tanto suonavo il pianoforte perché erano amici di nonna e quindi li trovavo a casa. Quindi mi toccava l'inchino, mi toccava il pezzettino da suonare al pianoforte. Però Venezia per me è stata una parte della vita molto importante, quasi un regalo, perché nascere fortunati a Venezia non è da tutti. Perché se c'è l'amore c'è una prima di più, io non so vivere senza te, non so. Elegante per natura, ribelle per vocazione, Patti Pravo è da sempre in bilico su una linea sottile. Da un lato la bella ragazza bionda di buona famiglia, cresciuta con la musica e una nonna che cerca di accontentarla in tutto e per tutto. Dall'altro lato la trasgressione, la spinta ad essere sempre imprevedibile, sopra le righe. La passione per la musica comincia prestissimo e diventa in fretta ciò che guida ogni sua scelta. A 4 anni studiavo danza, studiavo pianoforte, capito? Perché ero un po' agitatella come ragazza. Allora ha pensato bene la nonna di mettermi... 4 anni, un vero enfant prodige. All'inizio, è vero, è più che altro un modo per tenerla buona, per trovarle qualcosa da fare quando mamma e papà sono occupati. Ma non appena la nonna si rende conto che c'è qualcosa di più, è lei stessa, ancora una volta, a iscrivere la sua adorata nipotina al conservatorio. Papà lo vedevo comunque ogni tanto, eccetera. Mamma così, ma con mia madre in realtà ci siamo incontrati che avevo 50 anni, come madre e figlia. Prima ero vissuta sempre con i nonni e avevo lavorato e studiato. Poi a 10 anni sono entrato nel conservatorio con il 3° anno, quindi mi sono trovato con tutti i più grandi davanti a me. Devo dire che a me non mi dispiaceva, io ho studiato moltissimo, ma con piacere, perché ho avuto dei maestri strepitosi. Maestro Eugenio Bagnoli il pianoforte, ho avuto Ettore Gracis come direzione d'orchestra. Il paradiso tu vivrai, se tu scopri quel che hai, non ti accorgi che io amo già te. All'inizio degli anni 60, Nicoletta Strambelli è una ragazzina, ma sua nonna, grande figura di riferimento della sua vita, ci mette un attimo ad accorgersi che è una bomba ad orologeria. La sua ribellione è pronta ad esplodere, vuoi per i dischi americani che ascolta, vuoi per la moda che sta arrivando dall'Inghilterra e a cui comincia a ispirarsi. Insomma, è difficile contenerla. E infatti all'ottavo anno di conservatorio, invece di dare l'esame, chiede di poter andare a Londra a imparare l'inglese. La lungimirante nonna dice subito di sì, ben conscia che tarpare le ali non serve a nulla se non a stimolare ulteriormente quel fascino del proibito che Nicoletta ha già dato prova di subire più di una volta. Poi a un certo punto io ho chiesto a nonna di andare a imparare l'inglese durante l'estate in Inghilterra. Io arrivai in Inghilterra, dove dovevo andare a un college, no? E ho trovato tranquillamente degli amici che mi hanno detto: ah, bellissima Roma, sai, hanno aperto un locale eccezionale. Né a Nicoletta né agli amici trovati a Londra deve essere importato molto dell'inglese. Come si fa a mettersi a studiare quando fuori c'è un mondo che aspetta solo di essere scoperto, fatto di mille esperienze che aspettano solo di essere vissute? Siamo nel 65 e la voce dell'apertura del Piper è corsa veloce per tutta l'Europa, arrivando perfino nella capitale inglese. Il che la dice lunga sulla potenza del locale romano, se fa parlare perfino oltre Manica, dove il beat è di casa e di certo non mancano le occasioni per divertirsi. Fatto sta che Nicoletta Strambelli, che si chiamerà così ancora per poco, richiude la valigia che aveva appena fatto in tempo a svuotare, prenota il primo volo e parte con i suoi nuovi amici alla volta di Roma. 3 giorni, questa è la durata della sua permanenza inglese. Che la disciplina non sia il suo forte, d'altronde, l'ha già ampiamente dimostrato. Oh, ricordo che erano bei tempi, ricordo che c'erano molti sorrisi, molte cose che si inventavano al momento, ci si divertiva con poco. Il primo impatto col Piper è di quelli che non si dimenticano. Nicoletta arriva da Londra, è vero, ma al Piper l'atmosfera è davvero speciale. Forse perché è la prima volta che in Italia apre un posto così moderno, libero, tempio di un divertimento trasgressivo all'epoca, anche se assolutamente innocente visto con gli occhi di oggi. Dopo un quarto d'ora che è in pista, attira gli sguardi di tutti i presenti. È scatenata. E anche uno dei proprietari del locale l'ha notata. Già, perché il Piper è partito grazie a una squadra composta dal già citato Giancarlo Bornigia e da Alberigo Crocetta. È proprio lui, Crocetta, che rimane affascinato dalla giovane Nicoletta, tanto da diventare il suo primo magnifico destino. Alberigo Crocetta è una figura centrale della musica italiana. Produttore e grande talent scout, nella sua carriera ha scoperto e lanciato artisti come Mia Martini, i Primitives, Patti Pravo per l'appunto. La storia è questa. Crocetta, che all'epoca fa ancora l'avvocato, anche se ormai è chiaro che la sua vera passione sia la musica, nel 64 parte alla volta di Londra per tuffarsi nel pieno dell'atmosfera beat. Passa da un locale all'altro, incontrando nuovi amici e sonorità che in Italia sono pressoché sconosciute. E dopo un po' decide di portare tutto questo a Roma. Coinvolge Giancarlo Bornigia e insieme aprono il Piper. Crocetta è giovane, sveglio, intraprendente. Ci sa fare con le pubbliche relazioni. In poco tempo prende contatti con la casa discografica RCA e crea un nuovo sottomarchio che chiama Piper, come il locale. Tra i suoi primi successi figura Nicky Shane, che domina le classifiche già nel 65 con il brano Uno dei Mods. Nello stesso anno torna a Londra per aggiornarsi con le ultime novità insieme al suo amico Gianni Boncompagni. In un locale underground di Soho, i due rimangono colpiti dall'energia di un gruppo guidato da un leader che ha una grande voce. Sono i Primitives, capitanati da Mal, che vengono immediatamente portati al Piper e sfondano in Italia. Insomma, a Crocetta l'intuito non manca. E quando vede ballare in pista una giovanissima Nicoletta Strambelli, che ancora Patti Pravo non è, non se la lascia scappare. Io arrivai a Roma e andammo al Piper a ballare. Però non ho mai pensato di cantare in tutta la mia vita. Io volevo fare direttrice d'orchestra. E cantare, io cantavo nel coro, nel conservatorio. E quando mi sono trovata al Piper, c'era stranamente una persona che conoscevo che rappresentava la RCA di Padova. E quindi mi presentò Crocetta, che tranquillamente mi chiese: ma lei sa cantare come sa ballare? È 15 anni che fai? Claro che sì. Comincia tutto così. Curiosamente la ragazza del Piper si fa notare prima per come balla e solamente dopo si rivela una cantante bravissima. Crocetta sta attento a tutto, al look, che deve essere in pieno stile beat, e al nome, che non può essere Nicoletta Strambelli, troppo normale, troppo poco esotico, troppo per bene, insomma. Proprio quella cosa che lei non vuole essere. La prima proposta, quindi, è Guy Magenta. È così che Patti debutta in un quartetto di sole ragazze di cui fa parte anche Penny Brown, ma non funziona. E allora, in onore di un verso dell'inferno dantesco che recita «Guai a voi anime prave», cioè malvagie, e voilà, ecco Patti Pravo. Gli Gli anni del Piper sono per Patty Pravo a dir poco eccezionali. All'inizio abita in una pensione, ma fanno troppe storie sugli orari e le amicizie. E allora Crocetta la manda da una sua amica, una vecchia cantante lirica, che si rivela però molto più bigotta di quelli della pensione. Tutto il contrario che serve alla ragazza del Piper, ansiosa di fare tutte le esperienze possibili e di certo non intenzionata a rispettare le regole. Insomma, cosa fa per farsi mandare via? Quando una mattina la signora bussa, Patty Pravo dice «Avanti!» e la accoglie insieme a diverse persone nel letto, giusto così, per pura provocazione. Eravamo amici ancora prima che diventassi Patty Pravo con i Rolling Stones, perché anche loro erano così, stavamo a casa di Mario Schifano. E poi ho incontrato tanti artisti con i quali ho collaborato, ho lavorato, abbiamo diviso parti di giri del mondo. C'erano un sacco di artisti strepitosi, c'era un buon gusto, c'erano idee. C'è la creatività. Patty Pravo diventa famosa in fretta, non solo per la sua musica, ma anche per le sue trasgressioni. Crocetta le ha fatto incidere la canzone Ragazzo Triste, versione italiana di But Your Mind di Sonia Cher, con testo di Boncompagni, ma l'hanno censurata. La cosa ha un che di grottesco. Il verso incriminato, che recita «Scoprire insieme il mondo che ci apparterrà», viene trasformato dalla RAI in «Scoprire insieme il mondo che ci ospiterà». Beh, decisamente senza malizia rispetto a quel pensiero stupendo che avrebbe cantato anni dopo. Anticonvenzionale, libera, strafottente, Patty Pravo vive tutta l'eccitazione delle notti romane. Una sera entra nella farmacia di San Silvestro con Anita Pallenberg, la ragazza di Kate Richards, e la modella Donion Luna e comprano una bomboletta di ossigeno a testa e si mettono a passeggiare su e giù per il corso con le mascherine al naso, respirando ossigeno. La gente comincia a fermarla e poi si passa agli insulti e loro giù a ridere. Un'altra volta esce dal Piper e monta su una delle macchine della carovana diretta alla festa di Gato Barbieri, organizzata nella sua casa appena fuori Roma. Si bloccano in mezzo alla campagna senza più sapere da che parte andare e allora si accampano al buio e c'è chi canta, chi dorme, chi fa l'amore, chi piange. Una delle mille notti indimenticabili della ragazza del Piper. Peter con le mani. Kensington vivi, Peter, tu che Kensington vivi, tu. I magnifici destini. Io raccoglierò diamanti di pioggia, là dove la pioggia non cade mai. Ruberò la terra, ogni suo gioiello, per vedermi bella lì negli occhi tuoi. E farò di più, fonderò un paese dove amare è legge, dove sarai lei. Per andare via. Ai magnifici destini siamo alla fine degli anni 60 e Roma è passata dalla dolce vita alle notti trasgressive della Beat Generation. Il tempio del divertimento è il Piper. Se l'ha inventato Alberigo Crocetta, ispirato da un viaggio nella Londra del Beat. Dal Piper passano i gruppi del momento, italiani e non solo. I Rolling Stones, per dire, ci vengono spessissimo. Ma la regina incontrastata è una soltanto. Patty Pravo, che non a caso tutti cominciano a chiamare la ragazza del Piper. Io ho fatto di tutto. Mi sono divertita, mi sono fatto i miei anni di rock and roll, ho capito? Fondamentale. Però se bisogna fare queste cose, quando ti divertono, no? E allora le devi fare per un periodo, poi tutto deve passare, perché altrimenti diventa una cattiva abitudine. E poi odio essere dipendente da qualsiasi cosa, quindi mi è impossibile dipendere anche da formule di ogni tipo. Tipetto originale, Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli. Figlia della buona, anzi ottima, borghesia imprenditoriale veneziana, è cresciuta con una nonna che le ha sempre concesso di seguire la sua indole ribelle. Al Piper ci è arrivata che non aveva ancora 18 anni. Si è scatenata in pista e Crocetta l'ha subito notata. Mi hanno chiesto se sapevo cantare come ballare. Comincia tutto così. Lei, che ha studiato al conservatorio pianoforte e direzione d'orchestra, incide Ragazzo triste, la versione italiana di un brano di Sonia Cher che Boncompagni, autore del testo, inizia a mandare in onda al suo Bandiera gialla. Arrivano altre cover, le prime apparizioni TV e qualche ruolo al cinema, soprattutto nei musicarelli che all'epoca vanno tantissimo. Patti è bella, sfrontata, ha un aspetto e un temperamento che nessun'altra cantante italiana possiede. Si lascia ispirare dai suoi miti, ma va dritta per la sua strada. Io ho sempre amato molto Etta James, Nina Simone quando ero ragazzina, cioè quel tipo di artiste di un certo livello, con delle voci particolari, ma non mi sognerei mai posso godere con l'anima, ma non mi sognerei mai di seguirla, perché fanno talmente bene loro, hanno fatto talmente bene loro le cose che non... Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola, e poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste anche tu, pensi solo per te. Nel 1968 il mondo è in subbuglio, gli operai manifestano e gli studenti sono in piazza per pretendere un mondo migliore. Patti Pravo lo sfogo della sua ribellione lo trova ancora una volta nella musica. Esce La bambola, il brano della consacrazione, scritto dal suo secondo magnifico incontro del destino. Franco Migliacci. Attore, produttore, talent scout e paroliere, Franco Migliacci ha già scritto per i più grandi cantanti italiani. Per dire, è sua nel Blu dipinto di blu di Modugno, uno dei pezzi italiani più famosi al mondo. La bambola, però, è tutta un'altra cosa. Racconta di una donna che pretende rispetto dal suo uomo, rivendica la sua dignità e diventa in qualche modo espressione di un femminismo che si sta diffondendo ovunque. Insomma, un testo, per quanto pop, che di cose da dire ne ha parecchie. E infatti, per fortuna di Patti, molti altri artisti, uomini e donne, non se la sentono di cantarla. È diverso da qualunque pezzo in circolazione e non viene accolto bene. Tutti pensano che sia un po' troppo forte, poco per bene, troppo diversa. O fraintendono o sono imbarazzati dal testo. Fu fatta sentire, non voglio fare i nomi, a due cantanti importanti dell'epoca. Una disse, no, non la canterei mai una canzone del genere, perché io non sono così. Quindi vuol dire che non aveva capito, se non era così vuol dire che era una bambola. La seconda non rispose la cantante, ma rispose la madre, dicendo, mia figlia non è una bambola. E dico, la seconda che non ha capito. Allora con Zambrini diventavo pazzo. Migliacci e Zambrini, il compositore della musica, la propongono allora a Patti Pravo, che finora ha praticamente fatto solo cover di canzoni straniere. Lei va in sala di registrazione. Figuriamoci se si fa dei problemi a essere fuori dal coro, anzi, e la canta in modo perfetto. La bambola diventa un brano dal successo straordinario e vende 1,5 milioni di copie. Al settimo posto Tutto al più, cantata da Patti Pravo. Dunque parliamo di Patti Pravo e della sua personalità. Molte persone dicono Patti Pravo ha una personalità ben precisa e interessante. Altri dicono è tutto un cliché. Qual è la verità? La verità è che sono qui con tutti i miei errori, con tutte le cose buone che ogni tanto faccio. E con la tua personalità? Certo. Buono che tu che sia. Biondissima, sottile nella figura e molto bella, ormai Patti Pravo è una diva a tutti gli effetti. Rappresenta l'icona di una generazione vita e disinibita. Rifiuta ruoli importanti al cinema perché consapevole di non essere un'attrice, ma partecipa ai varietà TV e la vogliono per la pubblicità. Famoso, per esempio, è il suo carosello per la Algida, nel quale, dopo aver cantato, presenta un gelato. Questo è il mondo nuovo di oggi. E questo è il Piper, il gelato del mondo nuovo. Sì, oggi il gelato si chiama Piper. Non mancano anche i primi progetti importanti. Per esempio, il produttore Lilly Greco ha in testa un progetto particolarmente ambizioso e glielo cuce addosso. Si tratta di un album sul cui lato A viene inciso un vero e proprio concerto di 12 minuti circa, in cui la giovane cantante spazia da un'aria all'altra col supporto di un'orchestra di 90 elementi. Concerto per Patti, questo è il titolo, diventa un esperimento inedito e all'avanguardia. Intanto i grandi autori fanno a gara per scriverle delle canzoni. Fausto Leali, Lucio Battisti, Gino Paoli, solo per citarne alcuni. Lei, tra Sanremo e Canzonissima, si fa un'idea sempre più chiara di ciò che pensa della musica e dell'arte in generale. Oh no, per carità, l'arte io penso faccia bene all'anima, ma non ha nulla a che vedere con la politica, non ho mai visto nulla cambiare di politica con la musica, per esempio. No, no, l'arte fa bene a noi, fa bene alla nostra salute, fa quando è bella e ben fatta. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore e ci resterà. Sei bello in questo momento, più bello adesso che il vento ti allontana da me. In un periodo in cui una donna viene guardata male se fuma in pubblico, Patty Pravo non si fa problemi a mostrarsi spregiudicata. Dichiarazioni a favore dell'amore libero, una morale che accetta serenamente l'infedeltà, rapporti tumultuosi e nozze improvvise e folli. Nel 71 a Lucca, una donna infuriata per gli scandali della Pravo le lancia in faccia un posacenere di cristallo. Prognosi, trauma facciale e 3 incisivi rotti. Patty si sposa con l'arredatore romano Franco Baldieri, ma intanto si innamora di Riccardo Fogli. Grande amore, grande scandalo. Sta con entrambi senza nascondersi. Quando un uomo le piace, se lo prende, con il suo fascino travolgente. Canta la canzone degli amanti, Enemikit Pa di Jacques Brel. Il cantautore francese la sente e le fa adornare l'intera camera d'albergo di rose rosse. L'amore è tutto, può essere una piccola cosa come una stretta di mano, un'occhiata dolce, un rapporto un po' più drammatico. Sono 1600 euro, questo è bello amare. In questa stanza senza culla ogni mobile può dire le battaglie e le tempeste. Nulla più somiglia a nulla, non ho più voglia di partire, non hai più voglia di conquiste. Dopo un periodo lontana dalle scene, Patty Pravo torna alla grande alla RCA e incide un brano destinato ad avere grandissimo successo, Pazza Idea. Anche qui il testo non è proprio il tipico motivetto amoroso sanremese. Racconta di una donna che si concede a un uomo pensando a un altro, in pieno stile Pravo. Sarà anche scandaloso, ma vende oltre 1 milione di copie. Primo in classifica in Italia, Pazza Idea esce allora in altri paesi e viene tradotto in diverse lingue, spagnolo, inglese e tedesco, tra le altre. La carriera internazionale di Patty Pravo comincia dall'Europa per poi approdare anche in Cina e nei paesi arabi. Beh, è fondamentale innanzitutto conoscere il pensiero viene con la parola e capisci che come pensa qualcuno. Per esempio l'arabo mi ha stupito, non più di tanto perché venendo già dal cinese che passa dalla porta d'Oriente e va a finire sulla galassia d'Occidente e poi arriva, anche l'arabo è una lingua che comunque fa sognare, perché basta una per cambiare totalmente tutto. Gli anni 70 stanno per finire e Patty Pravo è famosissima sia per la sua musica che per i suoi scandali. Tra amori, tradimenti, successi e flop diventa un personaggio chiave della cultura italiana. Eccentrica, capricciosa e molto bella, vive da sempre una tensione costante tra uno stile canoro e musicale alto, dovuto ai suoi studi, e la sua inesauribile voglia di trasgredire le regole. Nel 78 concilia le due cose in un brano che fa parlare per la sua spregiudicatezza, un triangolo con Tu e noi e lei tra noi. Insomma, un pensiero stupendo. L'autore del testo è un irrequieto beat di Genova, il terzo magnifico incontro del destino di Patti Pravo. Ivano Fossati. In breve, intorno al 75 Fossati scrive il testo di Pensiero Stupendo, perché i discografici gli hanno chiesto una hit per Loredana Bertè e lui va distinto in una direzione audace. Non se ne fa niente. La canzone finisce nel cassetto. Poi, 3 anni dopo, se la ricorda e la porta a quelli della RCA, che pensano subito di darla a Patti Pravo. Si registra in fretta. Fossati sta alle chitarre acustiche. Patti è sensuale e travolgente, l'unica che può sostenere una scommessa del genere. Quando esce, sebbene qualcuno continui a sostenere per pudore e per benismo che si tratti di un rapporto platonico, è evidente che l'allusione è ben più esplicita. Comunque, polemiche o no, in 10 giorni la canzone è prima in classifica. Se ancora oggi la riascoltiamo, il modo in cui è portata la ritmica, la parte pulsante della canzone, ha poco a che fare con la musica leggera di quegli anni. Stabile e quieta Patti Pravo non lo è mai stata. Cambia look, taglio di capelli, spiazza i giornalisti che le fanno continuamente domande sulla sua vita privata. E poi, stanca, all'inizio degli anni Ottanta scappa in America. Per vincere la tensione beve un po' troppo. Trova conforto nel musicista Jack Edward Johnson e lo sposa davanti a un prete ortodosso. La mattina delle nozze è agitatissima e si scola un whisky. Non è il suo primo matrimonio, si è già sposata col batterista del suo complesso, Gordon Fegetter, poi con Franco Baldieri e infine col musicista Paul Martinez. Ma forse è proprio questo che, più che rassicurarla, la terrorizza. È sempre più bella, e lo sa. Quando le chiedono di posare nuda su Playboy, accetta senza problemi. Destano scalpore anche i suoi scatti sulle Ore, nota rivista erotica del periodo, ma lei ci ride su. Sembra che non gliene importi niente di niente. Poi nell'84 il grande ritorno a Sanremo dopo 14 anni di assenza con Per una bambola. Premio della critica, ma scarso successo di pubblico. Quello che tutti si ricordano però è come Patti si presenta sul palco. Abiti di Versace, stile ispirato all'Oriente, acconciatura costruita e cura dei minimi particolari. Quindi farebbe solamente bene avere svariate culture che convivono nella loro interezza e nel rispetto comune. Si dice in giro che la tieni male, come fai? Mandami a dire se è vero, corro a prenderla. Ogni volta che torna Patti Pravo si fa ricordare. Per questo forse può concedersi lunghi periodi di assenza dalle scene, come quando nel 94 parte per la Cina e diventa la prima italiana a esibirsi in terra cinese e per di più in cinese. In cinese mi è venuto perché venivo da un viaggio molto lungo, perché mi ero riproposto di fare la stessa strada di Marco Polo, e quindi mi sono fatta 9 mesi perché mi sono passata 3 guerre. Quindi sono trovata a Pechino. E poi mi ha fatto piacere fare quel disco perché sono stata anche la prima, non europea, ma bianca, diciamo così, bionda, che ha presentato una trasmissione che andava via satellite. Avevamo 1.380.000.000 di persone. Ma la cosa divertente è che me lo fecero presentare. E il presentatore che stava con me, che era il più grande cantante a quel tempo della Cina, lui cantava in inglese e io cantavo in cinese. Lui parlava in inglese e io parlavo in cinese, che è una cosa abbastanza, non è facile. Dicevamo, dopo ogni viaggio una rinascita. Succede anche quando Patti ritorna dalla Cina. Risale dopo anni sul palco del Piper e si prepara a un nuovo Sanremo. Quello che le serve è un brano all'altezza dei suoi grandi successi. Lo trova nella collaborazione con Vasco Rossi e Gaetano Curreri. E Dimmi che non vuoi morire, data per favorita al Festival del 97, arriva solo 8ª, ma il successo è ancora una volta straordinario. Il mio referente è il pubblico, questo l'ho sempre detto e vedo che questo succede, perché faccio 40.000, 80.000 persone, eccetera, e sono tutti felici, abbiamo un'unione di spirito e d'amore enorme, che mi dà una felicità che tutte le stanchezze, anche l'età, eccetera, non si sentono più. Con Curreri e Vasco, musica e testi, il rapporto non si ferma. Continua nell'album Una donna da sognare, che apre alla grande il terzo millennio per Patty Pravo. Dopodiché Patty regala un omaggio alla sua amica Dalida. Beh, è un po' strano perché due estati fa mi sono fermata a Gallipoli, ero in tour, mi sono fermata 2 o 3 giorni e ho rincontrato Antoine, che è una persona che lavora con il fratello di Dalida e anche lavorava con Dalida ai tempi, no? E tra una battuta e l'altra mi propose così di fare questo lavoro. Io non l'ho preso molto sul serio, anche perché mi sembrava un po' di usare una persona deceduta e così lasciai decadere la cosa. L'estate dopo, io, sai, col senno di poi, ho pensato che tutto sommato, innanzitutto io la conoscevo e mi era una persona molto simpatica. E quindi diedi un altro significato alla cosa. E pensai appunto di approcciarla. Approcciare una discografia come la sua è peggio che approcciare la mia, ecco. E quindi chiamai Dossena e gli feci fare un primo ascolto, anche perché lui aveva già collaborato con la stessa Dalida, e mi portò circa una cinquantina di pezzi. Da quei 50, per valore di testi o per mio piacere, ho scelto questo. Dopo più di 40 anni di carriera, Patty Pravo è ancora pronta a fare e a disfare, a esplodere con un successo e a mollare tutto. Sempre in bilico tra la bellezza altezzosa e borghese della studentessa di conservatorio e il temperamento anticonvenzionale che l'ha sempre contraddistinta, senza mai rinnegare quello che è veramente: l'eterna ragazza del Piper. Sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuno.